sedetta su una sedia del giardino del... Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Era un giorno d'ottobre del 1917, disse Jordan Baker quel pomeriggio, seduta a schiena molto dritta su una sedia del giardino dell'Hotel Plaza. Andavo da un posto all'altro camminando un po' sui marciapiedi e un po' sui prati. Sui prati mi trovavo meglio perché avevo quelle scarpe inglesi con i tacchetti di gomma sulle suole che fanno presa sul terreno morbido. Indossavo anche una nuova gonna scozzese che si gonfiava un poco al vento, e quando succedeva le bandiere bianche, rosse e blu davanti a ogni casa facevano tu in segno di disapprovazione. Le bandiere e i prati più grandi appartenevano alla casa di Daisy Fay. Aveva appena 18 anni, due più di me, ed era di gran lunga la più popolare ragazza di Louisville. Vestiva di bianco e aveva una piccola spider bianca, e in casa sua il telefono squillava tutto il giorno. E giovani ufficiali eccitati di Camp Taylor reclamavano con insistenza il privilegio di monopolizzarla per la serata, anche solo per un'ora. Quando arrivai davanti a casa sua quella mattina, la spider bianca era sul bordo della strada e lei sedeva al suo interno con un tenente che non avevo mai visto prima. Erano così presi l'uno dall'altra che non si accorsero di me finché non fui a meno di un paio di metri. «Ciao, Jordan», chiamò lei inaspettatamente. «Vieni qui, ti prego». Ero orgogliosa che volesse parlarmi perché di tutte le ragazze più grandi era quella che più ammiravo. Mi chiese se stavo andando alla Croce Rossa a fare medicazioni. Ci stavo andando. Mi sarebbe spiaciuto dirle allora che lei non poteva venire quel giorno? Mentre Daisy parlava, l'ufficiale la guardò in un modo in cui ogni ragazzina vorrebbe essere guardata prima o poi, e siccome mi sembrò romantico, fu un momento del quale mi sono sempre ricordata. Lui si chiamava Jay Gatsby. E non lo rividi per 4 anni e più. E quando lo incontrai a Long Island non mi resi conto che era lo stesso uomo. Era il 1917. L'anno seguente ebbi anch'io qualche spasimante e cominciai a giocare nei tornei, per cui non vidi Daisy molto spesso. Frequentava una combriccola di persone un poco più grandi, quando frequentava qualcuno. Giravano voci incontrollate sul suo conto, su come una sera d'inverno la madre l'avesse sorpresa a fare i bagagli per andare a New York e salutare un soldato in procinto di partire per l'Europa. Le fu risolutamente proibito di farlo, ma lei non parlò con la famiglia per diverse settimane. Dopo di allora smise di trastullarsi coi soldati per limitarsi a qualche giovanotto locale, miope o coi piedi piatti, che era stato scartato dall'esercito. Giunto l'autunno era di nuovo spensierata. Spensierata come non mai. Aveva fatto il suo debutto in società dopo l'armistizio e a febbraio già la si dava per fidanzata con un uomo di New Orleans. A giugno si sposò con Tom Buchanan di Chicago. E l'evento fu il più fastoso che Louisville avesse mai conosciuto. Lui si presentò con un centinaio di persone stipate in 4 carrozze private e affittò un intero piano dell'hotel Silbeck. E il giorno prima del matrimonio le regalò un filo di perle valutato $350,000. Ero damigella d'onore. Mezz'ora prima del pranzo nuziale entrai in camera sua e la trovai distesa sul letto, incantevole come una sera di giugno nel suo vestito a fiori, e ubriaca come una scimmia. Aveva una bottiglia di Sauterne in una mano e una lettera nell'altra. «Fammi le congratulazioni», bofonchiò. «Ma hai bevuto un bicchiere prima d'ora, ma santo cielo, oh, se mi piace!» «Che succede, Daisy?» «Ero spaventata, te l'assicuro, non avevo mai visto una ragazza in quelle condizioni.» «Prendi, cara.» Rovistò in un cestino per la carta straccia che teneva con sé sul letto e ne strasse il filo di perle. «Portalo di sotto e restituiscilo al proprietario, chiunque egli sia.» «Di a tutti che Daisy ha cambiato idea. Daisy ha cambiato idea.» Cominciò a piangere. Pianse a dirotto. Corsi fuori e trovai la cameriera di sua madre. Chiudemmo a chiave la porta e le facemmo un bagno freddo. Non volle mollare la lettera. La portò con sé nella vasca e la appallottolò nell'acqua e acconsentì che la posassi sul portasapone soltanto quando vide che si stava disfacendo in tanti piccoli pezzi come neve. Ma non proferì più parola. Le demmo i sali e le mettemmo del ghiaccio sulla fronte e la rinfilammo nel vestito, e mezz'ora più tardi, quando uscimmo dalla stanza, aveva le perle al collo e l'incidente era dimenticato. L'indomani alle 5 in punto sposò Tom Buchanan senza batter ciglio e partì per un viaggio di 3 mesi nei mari del sud. Le rincontrai a Santa Barbara quando tornarono e pensai che non avevo mai visto una ragazza così pazza di suo marito. Se lui lasciava la stanza per un solo minuto, lei si guardava attorno ansiosa e diceva «Dov'è andato Tom?» e assumeva la più assente delle espressioni finché non lo rivedeva comparire sulla soglia. Era solita sedersi sulla sabbia con il capo di lui in grembo per ore, massaggiandogli gli occhi e guardandolo con delizia incommensurabile. Era toccante vederli insieme. Ti suscitava risatine sommesse e affascinate. Eravamo in agosto. Una settimana dopo la mia partenza da Santa Barbara, una sera Tom si scontrò con una giardinetta sulla strada per Ventura, rimettendoci una ruota anteriore dell'auto. La ragazza che era con lui finì sui giornali perché si ruppe il braccio. Era una delle cameriere dell'Hotel Santa Barbara. L'aprile seguente Daisy ebbe la bambina e andarono a stare in Francia per un anno. Li vidi una primavera a Cannes e in seguito a Deauville. E quindi tornarono a Chicago per mettere su casa. Daisy era molto ammirata a Chicago, come sai. Si accompagnavano a una combriccola fin troppo allegra. Tutti giovani e ricchi e scatenati, ma lei ne uscì con una reputazione assolutamente intatta. Forse perché non beveva. È un gran vantaggio non bere in mezzo a bevitori accaniti. Si può tenere a freno la lingua e soprattutto scegliere il momento giusto per le proprie scappatelle in modo che gli altri siano troppo sbronzi per vedere o curarsene. Forse Daisy non è mai stata interessata alle tresche e tuttavia c'è qualcosa in quella sua voce. Insomma, circa 6 settimane fa udì il nome di Gatsby per la prima volta dopo anni. È stato quando ti ho chiesto, rammenti, se a West Egg avessi conosciuto Gatsby. Dopo che tu fosti tornato a casa, lei entrò in camera mia e mi svegliò e disse: Gatsby chi? E quando glielo descrissi, ero mezzo addormentata, disse con una voce stranissima che doveva trattarsi dell'uomo che conosceva da ragazza. Fino ad allora non avevo mai collegato questo Gatsby con l'ufficiale nella sua auto bianca. How deep is the ocean? How high is the sky? How much do I love you? I'll tell you no lie. How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to be where you are? Quando Jordan Baker finì di raccontarmi tutto ciò, avevamo lasciato il Plaza da mezz'ora e stavamo attraversando Central Park a bordo di una Victoria. Il sole era tramontato alle spalle degli alti appartamenti delle stelle del cinema tra la 50ª e la 60ª Ovest, e la voce limpida delle ragazze, già adunate come grilli sull'erba, si levava nel caldo crepuscolo. Lo sceicco di Arabia son io, l'amore che hai in te è mio. Stanotte quando dormirai, nella tua tenda mi troverai. Fu una strana coincidenza, dissi. Ma non si trattò affatto di una coincidenza. Perché no? Gatsby ha comprato quella casa per avere Daisy dall'altro lato della baia. Quella sera di giugno, dunque, non stava semplicemente contemplando le stelle. D'improvviso lo vidi per quello che era, come fosse stato appena estratto dal grembo della sua vana magnificenza. Vuole sapere, proseguì Jordan, se puoi invitare Daisy a casa tua un pomeriggio di questi e consentirgli di fare un salto. La semplicità della richiesta mi sconvolse. Aveva aspettato 5 anni e acquistato una reggia dove dispensare chiarore stellare alle falene di passaggio solo perché un pomeriggio di questi gli fosse consentito di fare un salto nel giardino di un estraneo. Dovevo essere messo a conoscenza di tutto ciò prima che potesse chiedermi un favore così piccolo. È spaventato, ha aspettato tanto di quel tempo. Pensava che ti saresti potuto sentire offeso, vedi? È un bullo di buone maniere, in fondo. Qualcosa mi preoccupava. Perché non l'ha chiesto a te di combinare un incontro? Vuole che lei veda casa sua, mi dico io. E la tua sarà giù molto accanto. Ah. Credo che nutrisse una mezza speranza di vederla entrare per caso a una delle sue feste una sera o l'altra, riprese Jordan. Ma non si è mai presentata. Quindi ha cominciato a chiedere di sfuggita alla gente se la conoscevano, e io sono stata la prima a rispondergli sì. È successo quella sera in cui mi mandò a chiamare durante la festa. E avresti dovuto sentire con quanti giri di parole è arrivato al punto. Ovviamente gli ho proposto subito un pranzo a New York, sembrava che stesse per ammattire. Non voglio andare chissà dove, non faceva che ripetere, voglio vederla vicino casa. Quando gli ho detto che eri un caro amico di Tom, lui ha cominciato ad abbandonare l'intero progetto. Non sa granché di Tom, tuttavia dice di aver letto per anni un giornale di Chicago solo nella speranza di vedervi citato il nome di Daisy. Era ormai buio. E mentre ci tuffavamo sotto un piccolo ponte, avvolsi col braccio le spalle dorate di Jordan e la strinsi a me e le chiesi di cenare insieme. D'un tratto non pensavo più a Daisy e Gatsby, bensì a questa persona netta, dura, limitata e incline a uno scetticismo universale che si abbandonava felice nel cerchio del mio braccio. Una frase cominciò a martellarmi nelle orecchie con una sorta di inebriante eccitamento. Esistono soltanto prede e cacciatori, gli operosi e gli stremati. E Daisy dovrebbe avere qualcosa nella vita, mi mormorò Jordan. E lei? Lo vuole vedere, Gatsby. Non deve saperne nulla, Gatsby non vuole. Tu devi solo invitarla per un tè. Oltrepassammo una barriera di alberi neri, al che la facciata della 59esima strada, un isolato di luce pallida e delicata, si irradiò nel parco. Al contrario di Gatsby e Tom Buchanan, non avevo ragazze il cui viso disincarnato fluttuasse lungo i cornicioni bui e le insegne abbaglianti. E così tirai a me la ragazza che avevo accanto, serrando le braccia. La sua bocca esangue e sdegnosa si piegò in un sorriso, e allora la tirai ancora più a me, verso il mio viso stavolta. Quando tornai a West Egg quella notte, temetti per un istante che in casa mia fosse scoppiato un incendio. Le 2 del mattino e l'intera punta della penisola stava avvampando di una luce che riverberava irreale sul Forteto e disegnava lampi oblunghi e sottili sui fili del telegrafo al lato della strada. Svoltando a un angolo vidi che era la casa di Gatsby, accesa dalla torre alla cantina. Dapprima pensai ad una nuova festa, una scatenata baldoria risoltasi in una partita di nascondino o rimpiattino con l'intera magione a fare da campo da gioco. Non si udiva però alcun rumore. Solo il vento tra gli alberi che scuoteva i fili e faceva andare e venire la luce quasi che la casa ammiccasse alle tenebre. Mentre il mio taxi si allontanava mugolando, vidi Gatsby sul prato venirmi incontro. «La tua casa sembra l'esposizione universale», dissi. «Davvero?» Si girò in quella direzione con aria assente. «Ho buttato un occhio in qualche stanza. Andiamo a Coney Island, vecchia lenza, con la mia auto. È troppo tardi». «Beh, che te ne pare di un tuffo in piscina? Non l'ho ancora mai usata quest'estate. Devo andare a letto. Va bene». Restò in attesa guardandomi con trattenuta impazienza. «Ho parlato con la signorina Baker», dissi dopo un momento. «Domani chiamo Daisy e la invito da me per il tè». «Perfetto», disse con indifferenza. «Non voglio darti problemi di sorta». «Che giorno ti andrebbe bene?» «Che giorno andrebbe bene a te?» mi corresse all'istante. «Non voglio darti problemi di sorta, ripeto». «Che ne diresti di dopodomani?» Valutò l'ipotesi per un po', quindi con riluttanza... «Voglio far tagliare l'erba». Guardammo entrambi l'erba. Un confine netto marcava la fine del mio prato arruffato e l'inizio della sua distesa più scura e ben tenuta. Sospettai che si riferisse alla mia erba. «C'era un'altra piccola cosa», disse incerto ed esitò. «Preferisci rimandare di qualche giorno?» chiesi. «No, non si tratta di questo, perlomeno...» Iniziò una serie di frasi che gli morirono in bocca. «È che... stavo pensando. Insomma, vecchia Lenza, tu non guadagni molto, vero?» «Non moltissimo, sì». La cosa parve rassicurarlo e seguitò con maggiore fiducia. «Proprio come pensavo, e spero vorrai perdonare la mia... Vedi, esercito una piccola attività collaterale, una sorta di lavoro, capisci? E pensavo, visto che non guadagni molto... Tu vendi azioni, vero, vecchia Lenza?» «Ci provo». «Beh, questa cosa potrebbe interessarti, non ti ruberebbe molto tempo e potresti tirar su un bel... Si sente che si tratti di una faccenda un po' riservata. Mi rendo conto ora che in un diverso frangente quella conversazione avrebbe potuto rappresentare un momento cruciale della mia vita. Ma siccome all'origine di quell'indelicata offerta c'era ovviamente la necessità di ricambiare un favore, non ebbi altra scelta se non impedirgli di andare oltre. Sono pieno di lavoro, disse. Ti sono davvero obbligato, ma non sono nella condizione di accettarne dell'altro. Non avresti niente a che spartire con Wolfshim. Evidentemente si era fatto l'idea che non volessi impelagarmi negli agganci menzionati a pranzo, ma gli assicurai che si sbagliava. Attese ancora un momento nella speranza che riprendessi la conversazione, ma ero troppo assorto per essere reattivo. Così se ne tornò a casa, seppure controvoglia. La serata mi aveva portato spensieratezza e felicità. Nel varcare la soglia d'ingresso mi sentii già immerso in un sonno profondo. Per cui non so se Gatsby sia andato a Coney Island o sia invece rimasto e per quante ore a buttare occhi nelle stanze con la casa illuminata a festa. Il mattino seguente chiamai Daisy dall'ufficio e la invitai da me per un tè. Non portare Tom, l'avvisai. Scusa? Non portare Tom. Chi è Tom? Mandò lei candida.